un'immagine offerta dalla vita ci portava in realtà al momento sensazioni molteplici e diverse. La vista, per esempio, della copertina d'un libro già a letto ha intessuto nei caratteri del suo titolo i raggi di luna d'una lontana sera d'estate. Il sapore del caffè latte mattutino ci porta quella vaga speranza di bel tempo che in passato, mentre lo bevevamo in una tazza di porcellana bianca, cremosa e grinzosa, che sembrava latte indurito, quando la giornata era ancora intatta e piena, si è messa tante volte a sorriderci nella chiara incertezza dell'alba. Un'ora non è soltanto un'ora. È un vaso ricolmo di profumi, di suoni, di progetti e di climi. Ciò che chiamiamo la realtà è un certo rapporto fra le sensazioni e i ricordi che ci circondano simultaneamente, rapporto escluso da una semplice visione cinematografica, la quale, dunque, tanto più si allontana dal vero, quanto più pretende di limitarsi ad esso. Unico rapporto che lo scrittore deve trovare per incatenarne per sempre l'uno all'altro, nella sua frase, i due diversi termini. Si può elencare di seguito quanto si vuole, in una descrizione, gli oggetti che figuravano nel luogo descritto. La verità comincerà solo nel momento in cui lo scrittore prenderà due oggetti diversi, ne porrà il rapporto, analogo nel mondo dell'arte a quello che è il rapporto esclusivo di causa ed effetto nel mondo della scienza, e li fisserà con gli indispensabili anelli d'un bello stile. Anzi, quando, come la vita, avvicinando una qualità comune alle due sensazioni, egli ricaverà la loro essenza comune, riunendole entrambe per sottrarle alle contingenze del tempo, in una metafora. La natura stessa non mi aveva forse messo, da questo punto di vista, sulla strada dell'arte? Non era lei stessa, inizio d'arte, lei, che mi aveva consentito di conoscere, spesso molto tempo dopo, la bellezza d'una cosa solo in un'altra cosa? Il meriggio a Combray nel rumore delle sue campane, le mattinate di Doncier nei singulti del nostro calorifero ad acqua. Il rapporto può essere poco interessante, gli oggetti mediocri, lo stile scadente, ma finché non c'è stato questo, non c'è nulla. Ma c'era di più. Se la realtà fosse una sorta di residuo dell'esperienza, più o meno identica per ciascuno, dato che quando diciamo un tempo cattivo, una guerra, un posteggio di carrozze, un ristorante illuminato, un giardino in fiore, tutti sanno cosa vogliamo dire. Se la realtà fosse questo, una specie di film di tali cose sarebbe certo sufficiente, e lo stile, la letteratura, che si discostassero dai loro semplici dati, sarebbero un artificioso fuor d'opera. Ma era questo la realtà? Se cercavo di rendermi conto di quanto succede effettivamente nel momento in cui una cosa produce su di noi una determinata impressione, come il giorno in cui, passando sul ponte della Vivonne, l'ombra d'una nuvola sull'acqua m'aveva fatto saltare di gioia gridando «Accipicchia!», o quando, nell'ascoltare una frase di Bergotte, tutto ciò che ero riuscito a scorgere della mia impressione era stato un «è magnifico» che le si adattava ben poco, o quando Bloch, irritato da un comportamento scorretto, pronunciava queste parole del tutto inadeguate a un'avventura tanto volgare «che si agisca così lo trovo francamente strabiliante», o quando, compiaciuto della buona accoglienza fattami dai Germans, e d'altra parte un po' inebriato dai loro vini, non potevo impedirmi, andandomene, di commentare fra me e me a mezza voce «sono, bisogna pur dirlo, delle creature squisite con le quali sarebbe delizioso trascorrere la vita. Io capivo che il libro essenziale, il solo libro vero, un grande scrittore non deve, nel senso corrente del termine, inventarlo, bensì, visto che esiste già in ciascuno di noi, tradurlo. Il dovere e il compito d'uno scrittore sono quelli d'un traduttore. Ora, se quando si tratta, per esempio, del linguaggio inesatto dell'amor proprio e il raddrizzamento dell'obliquo discorso interiore, che va allontanandosi sempre più dall'impressione prima e centrale, finché non coincida con la retta che sarebbe dovuta partire dall'impressione, è questo raddrizzamento qualcosa di malagevole, da cui la nostra pigrizia rifugge. Ci sono altri casi, quando per esempio si tratti di amore, in cui lo stesso raddrizzamento diventa doloroso. Tutte le nostre finte indifferenze, tutta la nostra indignazione contro le sue menzogne così naturali, così simili a quelle che noi stessi pratichiamo, in una parola, tutto quello che abbiamo continuamente, ogni volta che eravamo infelici o traditi, non soltanto detto all'essere amato, ma anche, mentre aspettavamo di incontrarlo, detto senza posa a noi stessi, qualche volta ad alta voce nel silenzio della nostra camera, rotto da un «Ah no, questi modi d'agire sono veramente intollerabili» o da un «Ho voluto vederti un'ultima volta e non ti nascondo che la cosa mi riesce alquanto penosa». Riportare tutto questo alla verità essenziale, da cui si era tanto discostato, significa abolire tutto ciò a cui teniamo di più, ciò che ha costituito solo a solo con noi, in progetti febbrili di lettere e iniziative, il nostro colloquio appassionato con noi stessi. Anche nelle gioie artistiche, che pure si cercano in vista dell'impressione che danno, noi facciamo in modo di mettere il più rapidamente possibile da parte, come inesprimibile, quanto costituisce per l'appunto l'impressione stessa, e attaccarci a quanto ci consente di provarne il piacere senza conoscerlo sino in fondo, e di credere di comunicarlo ad altri appassionati con i quali ci sarà possibile conversare, perché parleremo loro di una cosa che, soppressa la radice personale della nostra propria impressione, è la stessa per loro e per noi. Persino nei momenti in cui siamo i più disinteressati spettatori della natura, della società, dell'amore, dell'arte stessa, poiché ogni impressione è duplice, per metà inguainata nell'oggetto, prolungata dentro di noi per un'altra metà, a noi soli accessibile, ci affrettiamo a trascurare quest'ultima, cioè la sola su cui dovremmo fissarci. E non teniamo conto che dall'altra metà, la quale, non potendo essere approfondita perché è esteriore, non ci costerà alcuna fatica. Sforzarci di vedere il piccolo solco che la vista d'un biancospino o d'una chiesa ha scavato dentro di noi ci sembra troppo difficile. Ma suoniamo di nuovo la sinfonia. Torniamo a vedere la chiesa fino a quando, in quella fuga lontano dalla nostra vera vita, cui non abbiamo il coraggio di guardare, che si chiama erudizione, non le conosciamo altrettanto bene, e nello stesso modo del più dotto conoscitore di musica o di archeologia. Quanti si fermano a questo, non ricavando nulla dalle loro impressioni, invecchiando, inutili e insoddisfatti come scapoli dell'arte. Soffrono le stesse pene delle vergini e dei pigri, pene che la fecondità e il lavoro guarirebbero. Sono più esaltati riguardo alle opere d'arte dei veri artisti, perché la loro esaltazione, non essendo oggetto per loro d'una dura fatica d'approfondimento, si spande all'esterno, infiamma le loro parole, imporpora i loro volti. Credono di compiere un'azione se urlano fino a sgolarsi «bravo, bravo» dopo l'esecuzione di un'opera che amano. Ma queste manifestazioni non li inducono a chiarire la natura del loro amore che non conoscono. Se non che questo, inutilizzato, rifluisce persino sui più tranquilli dei loro discorsi, fa fare loro grandi gesti, smorfie, cenni del capo ogni volta che parlano d'arte. Sono stato a un concerto, vi dirò che mi lasciava abbastanza freddo. Poi comincia il quartetto, oh perbacco, è tutta un'altra faccenda. A questo punto la faccia dell'amatore esprime un'inquietudine ansiosa, come se pensasse: ma qui vedo delle scintille, c'è odor di bruciato, c'è il fuoco. Viva Dio, cosa mi tocca sentire! È esasperante, è mal scritto, eppure strabiliante. Non è roba da tutti i giorni. Lo sguardo è preceduto da un'intonazione non meno ansiosa, da scotimenti del capo, da nuove gesticolazioni, tutto il ridicolo del papero che con i suoi moncherini non ha risolto il problema delle ali, ma è tormentato dal desiderio del volo. Passa la sua vita di concerto in concerto, questo sterile amatore, inacidito e inappagato quando ingrigisce, senza vecchiaia feconda, sorta di scapolo dell'arte. Ma questa razza affatto detestabile, che puzza di merito e non ha ricevuto la sua parte di soddisfazione, è commovente, perché è il primo tentativo informe del bisogno di passare dall'oggetto variabile del piacere intellettuale al suo organo permanente. Per ridicoli che siano, non sono poi del tutto da disprezzare. Sono i primi tentativi della natura che vuol creare l'artista, tanto informi, tanto poco vitali quanto i primi animali che precedettero le specie attuali e che non erano fatti per durare. Devono commuoverci, questi amatori velleitari e sterili, come i primi velivoli che non riuscirono a staccarsi da terra ma in cui risiedeva non il mezzo segreto ancora da scoprire, ma il desiderio del volo. E io, mio caro, aggiunge l'amatore afferrandovi per il braccio, è l'ottava volta che lo sento e vi giuro che non è l'ultima. E in effetti, poiché non assimilano ciò che nell'arte è davvero nutriente, hanno continuamente bisogno di gioie artistiche in preda a una bulimia che non li lascia mai sazi. Così vanno ad applaudire per molto tempo di seguito la stessa opera, credendo anche che la loro presenza costituisca il compimento di un dovere, di un'azione come per altri quella a una seduta di consiglio d'amministrazione o a un funerale. Poi arrivano altre opere, magari opposte, in letteratura come in pittura o in musica. La facoltà di lanciare delle idee, dei sistemi e soprattutto di assimilarli è sempre stata molto più frequente, infatti, anche in chi produce dell'autentico gusto. Ma si è andata ulteriormente estendendo da quando si sono moltiplicate le riviste, le gazzette letterarie e con esse le finte vocazioni di scrittori ed artisti. Così la parte migliore della gioventù, la più intelligente, la più disinteressata, amava ormai in letteratura solo i libri di grande portata morale e sociologica o anche religiosa. Si figurava che fosse quello il criterio del valore di un'opera, rinnovando così l'errore dei David, dei Chenavard, dei Brunetier, eccetera. A Bergotte, le cui frasi più belle avevano richiesto in realtà un ben più profondo ripiegamento su se stesso, si preferivano scrittori che sembravano più profondi semplicemente perché scrivevano meno bene. La sua scrittura complicata era fatta soltanto per la gente di mondo, dicevano certi democratici, rendendo così alla gente di mondo un onore immeritato. Ma non appena l'intelligenza raziocinante vuol mettersi a giudicare le opere d'arte. Non c'è più niente di fisso, di sicuro. Si può dimostrare tutto ciò che si vuole. Mentre la realtà del talento è un bene, un'acquisizione universale di cui si deve innanzitutto constatare la presenza sotto le mode apparenti del pensiero e dello stile. È su questi ultimi che la critica si sofferma per classificare gli autori. Consacra profeta per il suo tono perentorio, per il disprezzo che ostenta verso la scuola che l'ha preceduto, uno scrittore che non porta nessun messaggio nuovo. Tale costante aberrazione della critica fa sì che uno scrittore dovrebbe quasi preferire ed essere giudicato dal grande pubblico, se questo non fosse incapace di rendersi conto di ciò che un artista tenta in un ordine di ricerche che esso ignora. C'è infatti maggiore analogia fra la vita istintiva del pubblico e il talento di un grande scrittore, che non è che un istinto religiosamente ascoltato in mezzo al silenzio imposto a tutto il resto, un istinto perfezionato e compreso, che non con le chiacchiere superficiali e i criteri mutevoli dei giudici accreditati. La loro logomachia si rinnova di 10 in 10 anni, perché non c'è solo il caleidoscopio dei gruppi mondani, ma anche quello delle idee sociali, politiche e religiose che acquistano una momentanea ampiezza grazie alla loro rifrazione in vaste masse, ma restano, malgrado ciò, confinate nella breve vita delle idee, la cui novità ha potuto sedurre solo intelletti poco esigenti in fatto di prove. Si erano succeduti così i partiti e le scuole, affascinando sempre le stesse teste, persone di intelligenza relativa, costantemente votate alle infatuazioni da cui sostengono le menti più scrupolose e più difficili in fatto di prove. Purtroppo, proprio perché gli altri non sono che mezzi ingegni, hanno bisogno di completarsi nell'azione e agiscono dunque più degli ingegni superiori, attirando a sé la folla e creandosi attorno non solo fame esagerate e disprezzi ingiustificati, ma le guerre civili e le guerre esterne, da cui un po' di critica port royalista sul proprio stesso conto dovrebbe preservare.